want. What we have now will never be that way again. So we call upon the offer to explain. Some tight kids straddle the streets. We've shunned them from the greasy grind. The poor little things, they look so sad and old as they mount us from behind. I ask them to desist and to refrain, and then we call upon the author to explain. Buongiorno a tutti cari ascoltatori, siamo a Montag e per prima cosa vi darò una comunicazione di servizio. Sì, il tempo reale che avete sentito poco fa era quello sbagliato, ci scusiamo con gli ascoltatori e provvederemo a rimediare. Bene, partiamo con Montag, trasmissione del lunedì dedicata al mondo dell'editoria, dei libri, della narrazione, della saggistica e quant'altro. Vi ribadiamo che la nostra sigla, come potete ascoltare, è We Call Upon the Author. Dell'imprescindibile, intramontabile in un sacco di cose, Nick Cave, sì. I suoi Bad Seeds. Esatto, del disco Dig Lazarus Dig, che noi abbiamo chiaramente scelto perché ci sembrava molto adatta alla nostra trasmissione. E oggi parleremo con il direttore editoriale di Giano. Giano è una casa editrice che è nata nel 2001 e pensavamo che potesse dal nome giocare con l'immagine di Janus, il dio degli inizi, materiali e immateriali. È una delle divinità più antiche e più importanti della religione latina, italica e romana, ma abbiamo scoperto che forse appunto è un gioco, perché il fondatore di Giano è Tiziano Gianotti, che ha creato questa casa editrice con un bellissimo progetto editoriale nel 2001, ma ci faremo raccontare meglio le loro origini, il loro progetto editoriale, le loro collane, le loro pubblicazioni dal direttore editoriale Giuseppe Russo, che avremo fra poco in studio. Fra poco al telefono. Allora, io, mentre noi chiamiamo il direttore editoriale di Giano, ho scelto un brano musicale per, come dire, coprire noi che lo chiamiamo, e l'ho scelto perché un libro da poco pubblicato da Giano è Exit di Ollenstein Hauer, un libro di cui sembra George Clooney abbia comprato i diritti per trasformare. In realtà non di Exit, ma di quello precedente. Il turista, esatto. Di quello precedente, sempre di Steinhauer. Esatto, esatto. Allora, io ho scelto questo brano perché il libro comincia così. Quando il DJ Jazzy G lanciò l'intro di Just Like Heaven, il pezzo dei Cure che aveva segnato la sua giovinezza, Henry Gray ebbe un attimo di totale euforia e quindi... Eccoci pronti a tornare in onda con Montag, trasmissione che oggi dedichiamo a una casa editrice con attualmente sede a Milano, che è Giano. Parleremo adesso, proprio in questo istante, con il suo direttore editoriale. Il direttore editoriale, che è Giuseppe Russo. Buongiorno. Partiamo subito dalla casa editrice. Vorremmo sapere un po' la storia di Giano. Giano è una casa editrice fondata da Tiziano Gianotti, un critico letterario, perché scrive ora su Divi Repubblica. Sì. Una casa editrice fondata a Varese nel 2000, mi pare, nel 2002, francamente non ricordo bene, ma è una casa editrice che ha cominciato con un programma di narrativa letteraria molto selezionato e sofisticato, che con delle acquisizioni interessanti. Per esempio il libro che abbiamo riproposto, Noi Agnes Brown Mamma, di Brandon O'Carroll, fu acquisito da Giano nei primi anni, che è un grande successo di Neri. Quindi riposo allora. Certo. Aveva costruito un catalogo di primo ordine sofisticato di pochi libri di piccoli editori. Poi, sì, con una grafica essenziale, no? Se non con una grafica essenziale interessante, perché ho riproposto un po' le linee grafiche degli anni 30. Poi Tiziano Giannotti, ovviamente, che è una persona di indiscusso talento letterario, avrebbe poi dovuto trasformare la casa editrice in qualcosa di più organizzato, di più. E allora ha preferito a questo punto, come sovente accade quando uno comincia in questo modo, ha preferito a questo punto cercare delle alleanze, una collaborazione. Abbiamo rilevato noi il marchio due o tre anni fa, e poiché nell'ultimo periodo lui aveva indagato molto questo settore del crime e del noir, certo. Noi abbiamo preferito classificarla in quella direzione, perché era ed è un mercato nel quale vogliamo essere presenti. Lei sa, noi siamo Neri Pozzi, io sono il direttore editoriale anche di Neri Pozzi, e Neri Pozzi è una casa editrice di narrativa letteraria, quella che si definisce generalmente così. Certo, una casa editrice storica, insomma, ricordiamo. Storica, sì, esatto. Volevamo intervenire anche in questo settore del crime e del noir, per delle ragioni che magari spiegherò nei particolari. E in effetti c'è da dire che Giano, comunque, a livello di grafico, con la nuova grafica che attualmente ha, ricorda comunque la grafica di Neri Pozza. È diversa, ma la ricorda. Sì, perché noi vogliamo in qualche modo essere presenti in maniera riconoscibile, essere presenti in un certo modo come gruppo, infatti, nei diversi settori di mercato dell'editoria libraria. Certo. L'interesse che avevamo di questa natura, la letteratura crime e noir, può essere autentica letteratura, questo è il punto. Diciamo. Su questo, in questa trasmissione siamo decisamente d'accordo su questo punto. In genere si fa questa suddivisione errata, no? Di narrativa letteraria, intendendo per narrativa letteraria non il giallo, non il noir, e narrativa commerciale, il noir e il giallo, ma non è propriamente così. No, assolutamente. Diciamo che la letteratura con la L maiuscola è un concetto abbastanza relativo e forse superato decisamente. Io volevo chiedergli un pochino l'organizzazione delle varie collane. So che c'è la collana nero-giallo, che appunto si concentra sui gialli e sul noir, e c'è la collana poi Blu Giano, che invece è una narrativa nazionale e internazionale che penso comprenda anche altri generi letterari, e infine c'è anche il Rosso Giano, che di cui diciamo c'è appunto questo romanzo che lei ha menzionato prima, di Brendan Byrne, Confessione di un ribelle irlandese, che è stato, se non ho capito male, ristampato di recente. Sì, è così. No, Brendan Byrne non è Brendan O'Carroll, di cui parlavo prima, che è un altro. Comunque è un'eccellente domanda, perché questa suddivisione per collane risponde a un tentativo di organizzazione del programma della casa editrice in diversi settori. C'è Nero Giano, che è una collana eminentemente di crime e di noir, ma anche lì però bisogna fare attenzione al crime. Il crime e il noir a volte assurge a vera letteratura, perché in realtà io sono dell'avviso che la letteratura vera esista e si distingua dalla narrativa in generale, no? Assurge a vera letteratura quando mostra gli incubi, le ossessioni di un tempo, no? Di un'epoca. Certo. Perché come dire, il male cambia di significato a seconda delle epoche, quando la letteratura vera è quella che anticipa lo spirito di un tempo, no? Certo. A volte questo riesce a farlo anche il crime, il noir. Da poi di questi tempi mi sembra che lo fa ovviamente. Esatto, e questo è il crime e il noir che ci interessa, no? Certo. E andiamo alla ricerca di scrittori di questo tipo, che poi uniscono anche, come dire, la capacità dello stile. Per esempio, uno scrittore di questo tipo è per me Ellery, che noi abbiamo pubblicato, sì. Roger J. Ellery, che abbiamo pubblicato questo libro Vendetta, che è splendido, io lo trovo. Poi c'è la collana che si chiama Bolgiano, e lì vorremmo pubblicare, lì per esempio è apparso il Grinta, diciamo. Esatto, un libro di cui parleremo. Sì, è apparso il Grinta di Charles Portis, lì vorremmo anche per certi aspetti fare delle riscoperte, riproporre degli autori, per esempio come il caso di Charles Portis, che costituiscono, che come dire, sono fondamentali per la letteratura americana contemporanea, e riproporli oggi. Pensate che noi Charles Portis, il Grinta, l'avevamo comprato prima di sapere che Coen avrebbero fatto il film. No, un colpo di fortuna ovviamente. Ma ottimo. E quindi avete adattato la grafica di conseguenza, perché in copertina, così voglio dire, il lettore che va in libreria lo trova subito, in copertina c'è la foto dei quattro protagonisti della... Generalmente si fa così quando è in corso un film di rilevanza e importanza. Poi devo dire, l'abbiamo scelta anche perché l'immagine è bellissima. È molto bella. Ma io vorrei tornare sul Grinta fra pochissimo. No, volevo dirle la terza cosa. Esatto, che volevo ricordarli appunto. No, Rossogiano, voglio dire, in Rossogiano intendiamo pubblicare delle biografie di irregolari, appunto, per esempio molto interessante. BN, Confessione di un ribelle orlandese, uno di quelli, ma è in mente di pubblicare anche per le confessioni anche per esempio di un gangster giapponese. Mi interessano molto queste cose qui in una casa editrice come Giano, no? Poi per esempio ho preso di recente un libro che Gianfranco Rossi ha fatto il film, che ha presentato a Venezia, si chiama Il Sicario, che è la confessione di un killer del cartello dei Narcos. Naturalmente questi libri servono a mostrare, no, sono per certi aspetti nel solco tracciato anche da Gomorra, vale a dire l'insensatezza di certe vite. Certo. E questo è Rossogiano, una collana che vorrebbe essere di questo tipo. Ottimo. Bene, adesso allora possiamo ritornare sul Grinta, che è, diciamo, questa novità che avete pubblicato di recente, e io volevo avvertire gli ascoltatori che c'è una promozione che riguarda l'acquisto in alcuni punti vendita del volume appunto il Grinta. Vi suggerisco quindi a tutti gli ascoltatori, di prima di acquistare questo volume, di visitare il sito internet, che è www.gianoeditore.it, in modo di poter usufruire di questa bellissima campagna di promozione, che regala un biglietto per vedere il film, se non sbaglio. Regala un biglietto per vedere il film, sì. A dire bene, l'abbiamo fatto con la catena delle Feltrinelli perché per delle naturali ragioni, vale a dire perché la Paramount Italia, un'organizzazione di una faccenda così complessa, si richiedeva un'organizzazione libraria anche di un certo tipo. Capillare, sì, la Feltrinelli dava queste garanzie. Chiunque si rechi nelle Feltrinelli può partecipare a questa questione qui comprando il libro. C'è un altro aspetto promozionale importante. Sì, esatto, che mi sembra anche molto bello. Lo vuole raccontare lei? Sì, cioè vale a dire, c'è questo, che in collaborazione con la casa di produzione americana e la sua filiale italiana abbiamo deciso di indire questo premio, vale a dire un racconto, chi ci manda un racconto di 20-30 righe più o meno, che sia quello che gli americani chiamano il prequel o il sequel, vale a dire o il precedente o la continuazione delle vicende narrate nel Grinta di Charles Portis, può concorrere ad avere la sceneggiatura originaria dei fratelli Coen, firmata dai fratelli Coen. Insomma, mica poco! Mica poco. Non è una cosa dura poco. Ma molto, molto interessante questa interazione con i lettori, anche aprire, come dire, no, l'uso del prequel del sequel o eventualmente di una fanfiction, perché stiamo un po' parlando anche di questo. È un'attività interattiva che, come dire, da queste parti ci piace seguire, e mi sembra che sia un'occasione veramente notevole, anche visto il premio in palio, che è veramente, veramente notevole. E poi visto comunque il romanzo, che è di tutto merito. Sì, noi consigliamo ai lettori, non so se anche voi in casa editrice avete questa idea, ma noi consigliamo ovviamente, come sempre, di leggere prima il libro e poi andare a vedere. Assolutamente, ma Giano ha fatto uscire il suo libro in libreria 2 settimane prima. Mi sembra. Proprio per stare attenti a questa necessità di alcuni lettori che preferiscono appunto leggere prima il romanzo e poi godersi le immagini che... Sì, devo dire che qui c'è quasi sicuro sempre un rischio, perché come è noto, per esempio, quasi sempre gli scrittori di romanzi sono delusi dalla trasposizione cinematografica. Sì. In questo caso no, però, perché come dire, in questo caso è sorprendente il modo in cui i Coen siano stati così fedeli al libro, diversamente... qualcuno di voi probabilmente l'avrà visto in televisione, anche io l'ho visto in televisione, del precedente film con John Wayne del Grinch, no? È l'unico film per il quale John Wayne ha vinto tra l'altro l'Oscar. Esatto, l'unico film per cui John Wayne vinse l'Oscar. Non era assolutamente fedele la versione di John Wayne, lì era lo sceriffo eroe americano, mentre invece in questo caso lo sceriffo è un personaggio dei Fratelli Coen, con una interpretazione di Jeff Bridges straordinaria. Come al solito, voglio dire, la letteratura è sempre un passo avanti, il cinema non poteva permettersi certe cose anni fa, e quindi dovevano rivedere alcuni punti, mentre adesso per fortuna i Coen hanno come dire, rimesso in pista questo ottimo romanzo. Noi abbiamo un'ultima domanda, cioè vediamo quanto tempo abbiamo, comunque diciamo l'ultima, quali sono le novità che Giano ha in cantiere e che propone ai propri lettori? È già uscito da 2 o 3 giorni Exit di Owen Steinhauer. No, ne abbiamo parlato poco prima di sentirci al telefono, sì. Ah, bene, sì, benissimo, allora non mi dilungo su questo. C'è un altro romanzo che è in uscita, penso sempre per la collana Nero Giano, se non sbaglio, che è quello di Frank Rizzo, esatto, Zero. Frank Rizzo, sì, Zero, uno scrittore italo-americano che per circostanze fortuite, soprattutto perché lui è innamorato dell'Italia, aveva scritto originariamente in inglese, che abbiamo conosciuto, ci ha fatto leggere questo libro, abbiamo preso i diritti mondiali, perché è un libro illuminante, tra l'altro, per esempio questo è un classico caso di crime che illumina la situazione, lo spirito del tempo degli Stati Uniti oggi, no? Che è ambientato a San Francisco e un gruppo di pace di un'organizzazione religiosa di estrema destra americana, che nel libro viene chiamato La Nuova Famiglia, tra l'altro esiste un'organizzazione di questo tipo che si chiama La Famiglia negli Stati Uniti, e organizza un complotto ai danni del Presidente degli Stati Uniti, su questo è il libro, e l'investigatore è un giornalista italo-americano con le caratteristiche del giornalista italo-americano, un libro interessante. Ambientato a San Francisco. Ambientato a San Francisco, un libro interessante di cui abbiamo preso i diritti mondiali e contiamo, sarebbe un caso singolare, no? Una casa editrice che prende i diritti mondiali di un libro. Sì. Originariamente in inglese e magari riusciamo a venderlo negli Stati Uniti. Sarebbe veramente notevole. Sì, così facciamo il rimborso e cominciamo le vite. Esatto, ve lo auguriamo. Io so che c'è anche in uscita un libro per Blugiano di Howard Marks, Mr. Nice. Ne vuole parlare anche un pochino di questo? Ce lo vuole presentare? Ah, che è un personaggio che costui, che veniva ritenuto l'altro membro dei Rolling Stones, perché una faccia da membro della band. Sì, già in copertina si vede. Già in copertina si vede. Lui era un intellettuale che ad un certo punto decide, è la sua biografia questa, di Howard Marks. Lui era un intellettuale negli anni 60, a un certo punto decide di diventare un beatnik e comincia a vivere come un beatnik. Poi in quegli anni, alla fine degli anni 60, comincia l'uso delle droghe, l'idea che le droghe potessero essere una forma di liberazione della mente e via dicendo, e lui diventa uno dei più grandi trafficanti di droga leggera mondiale, di modo che entra a contatto con la mano, poi viene incarcerato negli Stati Uniti, lì rimane 7-8 anni, si redime, come dire, e scrive questa straordinaria autobiografia che è una formidabile, incredibile ricostruzione di quegli anni, fine anni 60, anni 70, da parte di uno che ha vissuto in prima persona. Certo, quindi prima persona, l'autobiografia di un irregolare, ovviamente. L'autobiografia di un irregolare, di un intellettuale che divenne il più sofisticato barone della droga negli anni della contestazione studentesca, questo è. Edoardo! Naturalmente, attenzione, Alan Marx chiarisce a chiare lettere che lui è totalmente assume criticamente quegli anni, oggi ovviamente. Perfetto, guarda, noi ti ringraziamo tantissimo perché siamo proprio agli sgoccioli, abbiamo il GR che preme alle nostre spalle, e diamo ovviamente ai lettori immediatamente gli estremi per raggiungere il vostro sito, cioè gianoeditore.it. Ti ringraziamo moltissimo di essere stato qui con noi, di averci magari raccontato. La prossima volta ti inviteremo per Neri Pozza invece, che ne dici? Esatto. Grazie a voi, è stata una piacevole conversazione. Grazie mille. Anche per noi, grazie mille. Alla prossima. Arrivederci. Bene, Montag finisce qua sulle note di Fratello Dove Sei, è l'unica colonna sonora dei Coen che avevo a disposizione. Vi lasciamo al GR, ci vediamo, ci sentiamo lunedì prossimo dopo Bonobo.